però non sono mica pronto per suonare dei vinili. Io sono Stefano W. Pasquini, questo è Coxo Spaziale, trasmissione di arte e teatro, ma invece andiamo con un pezzo che non c'entra niente con praticamente quasi niente. La vita si può tradurre. The Shanghai Restoration Project si chiama questo gruppo e la canzone è The Wandering Songstress. E i due minuti di Lolly, ecco, hanno una durata percepita variabile. If I didn't know, if I didn't know, I didn't know myself. I was gonna start the 2 minuti di Lolly. La volta scorsa è venuto un ragazzo, vorrei che lo presentassi tu, vorrei che venissi tu sul palco, ti voglio vedere sul palco. Arrivo. Il ragazzo si chiama Igor Bararon, che vuol dire in ebraico figlio di Aronne, è un ragazzo ebreo di Sarajevo, la capitale, la sfortunata capitale della Bosnia, bombardata più giorni, e ha un complesso che fa musica etnica e non c'è solo Igor, c'è questa ragazza che è tedesca, Barbara, e questo Barbara e Paolo. E Paolo che invece è italiano. Dire che suona il violino e che lei suona la fisarmonica sembra che facciamo una trasmissione per i non vedenti, perché lo vedono assolutamente tutti. I think that there's a big reaction last year to the focus on young, very young people being nominated for the Turner Prize. The year this last year and the year before, when Ian Davenport, Fiona Ray, Damien Hirst, Rachel Whiteread, it's like that's a real difficult situation for artists who emerged in the 70s. Dobbiamo anche stare attenti a non farci travolgere da facili entusiasmi, come pare che in questi tempi un partito che rappresenta la maggioranza nella coalizione di governo sta in qualche modo pubblicizzando a scopi elettorali senza rendersi conto che le cose che si dicono vanno fatte e sapendo che nella misura che viene indicata forse non si possono fare completamente e creano così pericolose illusioni. Puzzolagista! Noi siamo... Registra noi raccogliamo. Sì, voi fate cose. Che raccogliete? Tante cose. Ma dove le butti per terra? No. Già finito? Sì, già finito. Hai capito? Mi ero dimenticato di aver fatto questi due minuti di Lolli finti quando, cos'era, l'anno scorso, due anni fa. Un giorno Lolli non era riuscito a farli in tempo e siccome in quel momento eravamo ancora giovani e ai tanti, l'ho fatto io al volo e così. Per cui saluto Riccardo Lolli e mi scuso con lui per non aver... Queste sono le repliche dei due minuti di Lolli. E niente, dunque, stasera parleremo di Ustica. Come sapete, ieri l'altro è stato l'anniversario, era il 27 giugno 1980 e lunedì scorso c'è stata la conferenza stampa per quel che riguarda tutto quello per quel che riguarda il Comune di Bologna e tutto quello che sono le... gli eventi di commemorazione di questo 38esimo anniversario. Effettivamente sono già passati 38 anni. Stavo pensando che fra l'altro era il 1980. Io ricordo molto bene il 2 agosto 1980, ma non ricordo assolutamente il 27 giugno 1980. Avevo una decina d'anni più o meno. Detto questo, però, prima volevo, siccome oggi sono completamente impreparato e arrivo veramente lungo, volevo comunque mi sono portato dietro dei gran vinili, tra cui Between the Wars di Billy Bragg, che avevo comprato a Londra da Video and Music Exchange, numero di telefono 0171 221 1444. Fra l'altro siamo in diretta, per cui se qualcuno di voi sente il bisogno impellente di mandarci un WhatsApp, il numero è 333 180 94 94. Dicevo, è bello questa copertina perché dice 5 pound, che poi viene cancellato, diventa 4 pound, poi cancellato diventa 3 pound e alla fine presumo io di averlo comprato a 2 pound, infatti in fondo c'è in verde 2 pound, che fra l'altro è una sorta di mini EP perché è un 45, no, è un 33 giri ma a 7 pollici e il lato B si chiama World Turned Upside Down. Io non mi ricordo assolutamente nulla di questo pezzo, ma adesso tenterò di metterlo su, nel senso che sarà almeno un anno e mezzo, forse anche due, che non uso un vinile a Radio Città Fujiko. È già molto se riesco a ricordarmi come funziona il mixer, come ben sapete non sono in grado di effettuare o ricevere telefonate, al contrario di Fedra che invece è bravissima, e anzi la saluto e la bacio e magari venerdì prossimo siamo qua insieme, chi lo sa. Tentiamo di fare questa cosa, State qui con me. Allora, start, stop, ok, questo è attaccato, eccolo lì, lo alziamo e lo riabbassiamo e vediamo se si sente qualcosa. Console, sì. Sento un fruscio, eccolo, ho sbagliato. No, va bene, a 33 giri. In 1649 to St. George's Hill. E io giuro che c'era scritto 33 giri. Show the peoples will they defy the landlords. Cosa facciamo? Ripartiamo? Ma sì. Ripartiamolo un attimo. Eccolo qua. Così almeno lo sentite come si deve. Coxo spazio. 1649 to St. George's Hill. A ragged band they called the Diggers came to show the people's will. They defied the landlords, they defied the laws. They were the dispossessed, reclaiming what was theirs. We come in peace, they said, to dig and sow. We come to work the lands in common and to make the waste grounds grow. This earth divided, we will make whole. So it will be a common treasury for all. The sin of property we do disdain. No man has any right to buy and sell the earth for private gain. By theft and murder they took the land. Now everywhere the walls spring up at their command. They make the laws to chain us well. The clergy dazzle us with heaven or they damn us into hell. We will not worship the God they serve, the God of greed who feeds the rich while poor men starve. We work, we eat together, we need no swords. We will not bow to the masters or pay rent to the lords. We are free men, though we are poor. You diggers all stand up for glory, stand up now. Men of property, the orders came. They sent the hired men and troopers to wipe out the diggers' claim. Tear down their cottages, destroy their corn. They were dispersed, but still the vision lingers on. You poor take courage, you rich take care. This earth was made a common treasury for everyone to share. All things in common, all people one. We come in peace, the orders came to cut them down. Adoro come si sente il vinile in questa radio. Ci sono questi due fantastici technics che suonano veramente benissimo. Io nel frattempo, se sentite rumore d'aereo o di traffico, perdonatemi, ma qui dentro ci sono 48 gradi e ho dovuto aprire la finestra, per cui sentiamo anche un po' di sottofondo, un po' di cicale, eccetera. Vi ricordo che questo è Coxo Spaziale e vi ricordo anche, vado a prendere i miei foglietti, vi ricordo anche che questa è la settimana del 38esimo anniversario della strage di Ustica e lunedì scorso io sono stato al Mambo alla conferenza stampa, appunto, che racconta gli spettacoli che ci sono per commemorare questa cosa. Presidentessa dell'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, Daria Bonfietti, ha presentato tutto il programma. Alcune cose del programma, ahimè, erano mercoledì, ma stasera, per esempio, ce n'è uno che si intitola Dimenticare la Bolognina, uno spettacolo proprio naturalmente al Museo per la Memoria di Ustica. Ma sentiamo che cosa ci ha raccontato Daria Bonfietti lunedì scorso a proposito di Ustica. E siamo arrivati, come dicevamo e come sapete, perché avete accettato di essere qui, al 38esimo anniversario della strage di Ustica. Noi cercheremo, se ci riusciamo in questi giorni, di non farla vivere questa ricorrenza come una celebrazione, come un fatto che richiami scontati, frasi retoriche. Non lo è mai stato, spero che riesca a non esserlo neppure quest'anno. Io ho soltanto due o tre cose importanti da dire sull'aspetto generale, che è quello che poi interessa e che lega, come vogliamo dire, quest'anno con questo bellissimo, peraltro, manifesto, invito, brochure, chiamatela come volete, come lega, dicevo, con molta importanza per noi questo filo, l'impegno per la verità e la battaglia appunto per fare memoria, lo lega, lo avete visto sull'autobus che c'è fuori, quel gomitolo che si srotola anche per dei giovani studenti, è stata evidentemente la descrizione che è venuta loro di fare attraverso questo filo che si srotola e si srotola per arrivare alla verità e si srotola per farla la storia e si srotola per provare a scriverla tutta la storia. Ecco, noi volevamo tenere insieme in questo anniversario questi fili che collegano questi due aspetti importanti. Però io ci tengo a dire che mai come quest'anno, e di ribadire, perché sempre che non sia chiaro, che alla verità, nonostante tutto, tanto tardi, tanto troppo tardi, noi ci siamo arrivati e mi piacerebbe che fosse vissuto come una cosa positiva, cioè sulla vicenda di Ustica non ci sono più misteri, il 19 dell'Italia è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, ce lo dice un giudice addirittura dal 99, e proprio perché c'è questa verità, per me così tragica, così vergognosa, così drammatica, io ho sempre capito poco le conseguenze che questa verità ha portato, secondo me sempre troppo poco importanti, poco significative. Perché dico questo? Perché dopo questa verità si sono susseguite, come voi sapete, diverse ormai sentenze in sede civile, passate in giudicato, quindi terzo grado, Cassazione, che riconoscono nel Ministero dei Trasporti e nel Ministero della Difesa alcune colpe, alcune responsabilità, tanto da indurre a dei risarcimenti per coloro che hanno adito le vie legali, che sono o la compagnia Itavia o parenti delle vittime che si sono in questi anni costituiti parte civile. Dico, ma se ci sono queste sentenze passate in giudicato che dicono che i ministeri sono colpevoli, è perché è vera la prima parte, quella che dicevo prima, cioè il 19 è stato abbattuto. Nessun'altra perizia è stata fatta nel corso dei processi che sono stati fatti ai militari dell'aeronautica per alto tradimento. Questo lo specifico perché si confonde spesso. Quella è la verità sulle cause. Poi sono stati fatti dei processi a dei militari perché avevano detto le bugie per alto tradimento, perché avevano strappato delle pagine, perché avevano raccontato delle balle. Ma è un'altra cosa. In quel contesto, in quei processi, 4 anni in primo grado, poi secondo grado, terzo grado, nessuno ha rifatto delle perizie, non so come dirvi, nessuno ha rivisto quel relitto, perché le perizie su quel relitto, di tutti i tipi, fotografica, chimica, esplosivistica, bla bla, erano già state fatte e avevano già permesso a un giudice di dire è stato abbattuto, punto. Ecco, da qui in poi mi piacerebbe sentire che questa è la verità e tutti ne partono da qui per andare avanti. Insisto, siamo qui apposta per dire che stiamo andando avanti e vogliamo, anche in questo anniversario, dirlo con forza, andare avanti. When I was younger, I told my mother, I said one day I'm gonna make you proud. Now that I'm older, it's so much harder to say those words out loud. You're growing taller, a little smarter, and one day you're gonna leave. Oh, will you look like you're questa era Liz Lawrence, When I Was Younger, e invece prima abbiamo sentito appunto le parole di Daria Bonfietti, la presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica. E dunque il 19 dell'Itavia è stato abbattuto, e in questi giorni, tra cui stasera, ci sono varie commemorazioni. Questa sera, per esempio, rimettetevi le ciabatte e appena finito Coxo Spaziale cominciate ad andare verso la Bolognina, anzi al Parco della Zucca in via di Saliceto 3/22, perché c'è l'esito dei laboratori fatti al Museo per la Memoria di Ustica, con un programma chiamato Dimenticare, tra parentesi, la Bolognina, liberamente tratti dal testo di Paolo Nori, a cura della Baracca, Testoni Ragazzi, Cantieri Meticci e del Dipartimento Educativo del Mambo. Ma sentiamo ancora invece cos'altro ha da aggiungere, che cos'altro abbiamo registrato lunedì scorso alla conferenza stampa e che cos'altro di importante mi sono sentito di inserire in questa serata, sempre dalla presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, Daria Bonfietti. Abbiamo più volte criticato in questi anni che poca è l'efficienza con la quale tutto ciò sta avvenendo. Poca efficienza vuol dire che si trova poco nelle carte che vengono depositate dalle amministrazioni pubbliche, e non sappiamo se dolosamente o colposamente ciò avvenga. Sta di fatto che bisogna ben dire che se non si trovano, come non si trovano, elementi, parlo sempre della mia vicenda, coevi sulla vicenda di Ustica nel Ministero dei Trasporti, per esempio, nel Ministero della Difesa, per esempio, che sono stati, da condanne successive come vedete che avvengono, ma che comunque oggettivamente sono stati ben interessati quella notte rispetto a questo evento, è davvero tragico. Non so come leggerla. Politicamente faccio fatica a capire che nessuno abbia registrato alcunché di quella notte, di quei giorni, al Ministero della Difesa, al Ministero dei Trasporti. Ma dai dati che vengono consegnati per effetto della direttiva Renzi non c'è nulla sulla vicenda di Ustica, così come non c'è nulla della prefettura di Bologna, ma insomma un discorso che farò magari il giorno dell'anniversario per essere ancora più chiara su questi aspetti. Insisto, noi andremo avanti perché ci interessa fare questo percorso mettere insieme anche davvero più elementi possibili che la ricerca storica ci possa dare per aiutare il possibile raggiungimento e per poterla scrivere tutta questa verità. E intanto che facciamo questo, come sapete, tutti gli anni vogliamo legare anche il nostro lavoro a un lavoro di, come dire, di cercare intorno a quel museo di fare memoria, nel miglior modo possibile. Dico nel miglior modo possibile perché, credetemi, la presenza, come sapete, dell'opera della performance, dell'installazione di Christian Boltanski in quel museo, la sua presenza l'anno scorso a maggior ragione all'Arena del Sole con quel suo spettacolo, insomma, semmai ci inducono davvero a sforzarci ogni anno di più per essere, come dire, all'altezza. Si fa fatica, ma noi vogliamo comunque provare a aggiungere con tutti gli altri linguaggi dell'arte o di quello già espresso in quel museo comunicazione nuove, sensazioni nuove, modi nuovi di leggere la realtà e di fare memoria di quella vicenda. Sirens in the radio said it'd be over 3 hours ago. I've been waiting for his car. Pickering con Car on the Hill, e questo è Coxo Spaziale e stasera parliamo di Ustica. Cittadini italiani uccisi da a seguito di azione militare di intercettamento. Il 19 è stato abbattuto, ricordiamolo. E scrive sempre Daria, no, smetto perché canta Lucy. For the Car on the Hill, Lucy Pickering, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente, ha una bella voce, che ne dite? Ed ecco un DC9 probabilmente che ci passa sulla testa. Un filo che unisce dei lembi, questa è l'immagine dell'anniversario, scrive Daria Bonfietti. Questo è il nostro compito, tenere insieme il bisogno di verità con l'impegno della memoria, per la memoria. E dunque dicevamo, adesso forse ho messo un jingle, non mi ricordo, forse no? No, direi di no. Bene, a questo punto direi che allora il jingle giusto da mettere, fammi un po' vedere se ce l'ho. Da qualche parte, naturalmente no, è questo, dov'è? Ah, ho troppi jingle. L'angolo della menzione. Proprio per il fatto che a questo punto possiamo parlare dello spettacolo che c'è stasera alle 21:30, tra non molto, Dimenticare la Bolognina, Dig Where You Stand, dice letteralmente, scava dove sei. Ecco, sentivo, per un compito la classe di una scuola della Bolognina si ritrova a dover affrontare una ricerca sulla memoria, una ricerca con un titolo chiaramente provocatorio: Dimenticare la Bolognina. Le ragazze e i ragazzi scopriranno che dimenticare la Bolognina è impossibile. Lo dicono i muri, le strade, i parchi, le targhe. Lo dicono le persone che hanno vissuto in prima persona il male che ha attraversato il quartiere in anni diversi. Lo dicono le persone che hanno lottato contro quel male. Lo dicono i luoghi simbolo di questo quartiere: il Museo per la Memoria di Ustica, il Memoriale della Shoah, il Monumento Commemorativo della Resistenza in Piazza dell'Unità, l'area Gobetti, dove si è scatenata la ferocia razzista della cosiddetta banda della Uno Bianca. Il testo multiforme di Paolo Nori gioca con le parole, ribadendo quanto sia importante dare nuova vita alla memoria e trovare nuove strade che portino testimonianza del luogo che abitiamo, anche per parlarne con le nuove generazioni. Partendo dal testo di Paolo Nori sono stati realizzati diversi percorsi artistici. Il laboratorio teatrale condotto da Bruno Cappagli e Daniela Miccioni della Baracca, Testoni Ragazzi, il laboratorio di costruzione di oggetti a cura di Cantieri Meticci e quello di creatività grafica e comunicazione visiva a cura del Dipartimento Educativo Mambo, che ha prodotto insieme ai ragazzi delle scuole coinvolte la decorazione di un autobus di linea, gentilmente reso disponibile da T-Pair. E questo è stasera alle ore 21:30. Vi ricordo che l'ingresso è libero proprio davanti cioè nel Parco della Zucca, davanti al Museo per la Memoria di Ustica, e naturalmente è ad offerta libera. L'altra menzione, invece, passiamo, questa settimana abbiamo poche cose ma tanto teatro, ahimè Fedra non è con me per raccontare magari in maniera un po' più forbita quello che stiamo programmando, cioè vi stiamo raccontando che sarà in programmazione è mercoledì 4 luglio alle ore 21.30. Lo spettacolo teatrale si chiama È assurdo pensare che gli aerei volino. Uno spettacolo di Kepler 452, concept e drammaturgia sempre di Kepler 452, regia di Enrico Baraldi e Nicola Borghesi, in scena Paola Aiello, Nicola Borghesi, con i suoni di Bebo Guidetti e l'organizzazione di Michela Buscema. Questo è mercoledì 4 luglio alle 21.30 e abbiamo, se non sbaglio, sempre Daria Bonfietti che ci dice due parole su questo spettacolo. E quindi avremo la compagnia Kepler 452, credo che sia presente qualcuno qui, che con lo spettacolo È assurdo pensare che gli aerei volino, bellissimo questo titolo, cercherà di ricostruire alcune identità. Lo leggo perché non so bene cosa vorranno fare, quindi non posso esprimermi, io vorrei magari sentire loro, sono molto preoccupata perché ho fatto un'intervista per 3-4-5 ore, non so come vorranno usarla, non ho idea. Bene, ma detto questo, cercheranno, leggo perché l'hanno scritto loro, di ricostruire alcune identità partendo dagli oggetti lasciati e alternando drammaturgia, indagine, interviste e libere associazioni. Vogliono cioè confrontarsi con quello che è rimasto, con gli oggetti, con le persone, ma anche con gli oggetti rimasti. Performance, ricerca, teatro. Ed eccoci qua, questo era mercoledì 4 luglio alle 21.30 ed è sempre al Parco della Zucca. Ci saranno altri spettacoli l'11 luglio, il 18 luglio, il 25 luglio e il 10 agosto, che sarà la serata conclusiva, la notte di San Lorenzo, di questo 38esimo anniversario della strage di Ustica, ma ne parleremo naturalmente nelle prossime puntate. E io spero di riuscire ad andare a vedere qualcuno di questi spettacoli. E ritorniamo un po' all'arte. Qualche giorno fa ero proprio al Mambo, fra l'altro, parlando con dei colleghi e ci chiedevamo un po' quale fosse il ruolo della galleria per l'artista oggigiorno. Ed effettivamente questa cosa mi ha fatto un po' riflettere. Dopodiché Gianmarco Montesano, famosissimo artista e non solo, è anche direttore di teatro, regista, eccetera, l'altro giorno ha scritto a questo gruppo che sta organizzando una sorta di forum di discussione proprio sull'arte contemporanea. E lui ha scritto che da qualche tempo l'arte ha smesso di fare mondo, intendendo che il ruolo dell'artista visivo, intendiamo, perché effettivamente sta pensando per esempio a questi spettacoli che hanno a che fare con Ustica o comunque anche con la compartecipazione sociale di bambini, già della comunità, capito, che hanno un legame intenso con la comunità. Il teatro effettivamente molto probabilmente è molto più vicino alla gente che non l'arte contemporanea. L'arte contemporanea negli ultimi anni, posso dire tranquillamente nell'ultimo decennio soprattutto, si è davvero allontanata dal pubblico, ma non solo, come dice appunto Montesano, non fa più mondo, cioè non è più parte del mondo. E io ho La mia tendenza era quella appunto di dare un po' la colpa al mondo delle gallerie, al mondo del mercato, perché effettivamente alla fine sono i galleristi che uniscono il fruitore con il creatore dell'opera d'arte e spesso sta a loro costruire un ruolo e anche appassionare il fruitore su quello che sono le follie dell'artista. Nello stesso tempo, effettivamente, in un paese come l'Italia, l'altro giorno pensavo che uno dei problemi del ruolo dell'artista oggi è quello del non essere parte di una comunità. Ma questo perché? Cioè, non è tanto colpa sua, ma è il fatto che il concetto stesso di comunità negli ultimi 20 anni, se non 30, è veramente scemato in un nulla. E non essendoci un sentimento, un'idea coesa, di comunità. E adesso naturalmente la Bolognina è un'isola felice, ma non solo, ci sono tante piccole isole felici in questo paese un po' disastrato, però, però generalmente non abbiamo più un'idea di comunità, e dunque la voce dell'artista, ma non solo quella, la voce del poeta, la voce del filosofo, si sono perse in un nulla, proprio per il fatto che non c'è, non solo non c'è la volontà di ascoltarli, ma non c'è nemmeno una comunità che li possa aiutare quando loro hanno bisogno, o che lui o lei possa aiutare, o comunque possa far fare dei percorsi di pensiero leggermente diversi da quello che è il mainstream, quando l'artista ne sente la necessità. Così, queste sono piccole divagazioni che mi sono venute in mente in questi giorni, ed effettivamente sono forse da affrontare con qualche ospite. Stasera invece sono solo, e pensando anche alla memoria, ho pensato di portarmi dietro un po' dei 45 giri di mia nonna, Angela Malaguti, che saluto anche se è morta nell'85-84, comunque è morta da un bel pezzo, e lei aveva questo fantasticissimo mangia dischi, che era appunto una sorta di, era un blob color crema tipo, con una fessura, tu gli infilavi dentro il disco e il disco magicamente partiva. E questo mangiadischi, fra l'altro, aveva una puntina molto leggera, per cui i dischi che lei mi ha lasciato, che io ho ereditato, poi non so perché sono stato io, pur essendo avendo lei 3, 6, 9 nipoti, non so bene perché sono io quello che ha ereditato i dischi della nonna Angela, ma comunque io ce li ho e io posso suonarveli. Stasera ho portato Antoine, La tramontana di Antoine era il disco in assoluto che ascoltavamo io e i miei cugini più spesso. Infatti è completamente massacrato, adesso vi posterò su www.coxospaziale.blogspot.com, troverete una scansione o una foto della copertina in cui fra l'altro io ho disegnato la navicella di Alcor e ho scritto Alcor. Ma il retro era un pezzo fantastico, stiamo parlando del 1967 o 68, adesso vado a leggere, si intitolava Io voglio andare in guerra, e lo scandisco così perché Antoine, francese, anche lui lo scandiva così. Adesso lo metto su, eh. Siete pronti? Start. Sentiamo il fruscio? Forse sì. Togliamo questa musica. Ecco. Sentite che violino. Voglio andare in guerra e fa fuori tanta gente, trovo che un'idea seducente. Io voglio andare in guerra e vedere gente cadere a terra, lo trovo uno spettacolo attraente. E appena scoppia un conflitto, il nostro amico si arruolò, dicendo adesso che ne ho il diritto, finalmente mi divertirò. Io voglio andare in guerra e far fuori tanta gente, bianchi o neri o gialli non fa niente. Io voglio andare in guerra, sono nato combattente, io sì che mi comporto virilmente. La pace in terra, però la nazione ha bisogno di me. Tac tac. E poi nel dopoguerra sarò pluridecorato e rispettato quasi come un re. Senti che bello. Tac tac. È morto un bel mattino meno ha soldato di valore, chi invidia il suo destino para subito da un dottore. Sono Paolo Assei e sto ascoltando Coxo Spaziale. E speriamo che Paolo Azzei stia ascoltando Coxo Spaziale, perché è il suo compleanno, per cui buon compleanno Paolo Azzei. Anzi, molto probabilmente, sentite che continua il fruscio, adesso magari lo abbasso, ecco. Ma la console dei dischi continua a funzionare senza fare il rumoraccio che invece sentiamo quando abbasso il CD1. Dicevamo, Paolo Azzei, buon compleanno. Questo era il 1968 ed era il 45 giri di Antoine, Io voglio andare in guerra. La cosa paradossalissima è che sembra una stupidaggine sto disco, ma c'è ancora gente che la pensa in questo modo, e questa è la cosa veramente incredibile, capito? Che il tipo che era il 1968, 78, 88, 98, 2008, 2000, praticamente no, 50 anni dopo c'è ancora gente, nel 2018 c'è ancora gente che ha questo tipo di mentalità, ed è veramente, io alle volte guardo le news, vedo quello che sta combinando Trump in America, sento quello che dice il nostro ministro dell'interno e mi chiedo, ma veramente nel 2018 siamo ancora messi così? Siamo ancora così tristi, così piccoli in realtà, così piccoli? Detto questo, Coxo Spaziale, ahimè, sta per finire, sono i 55. Approfitto, no, in realtà ho un altro disco di Dalida e anche uno di Claudio Villa che mi sono portato soprattutto per curiosità, ma magari non li suoniamo. Cosa dobbiamo raccontarci? No, nulla. Adesso fatemi ricontrollare che non ci fossero altre menzioni da menzionare. Ma mi sembra di no. No, direi di no, per cui siamo tranquilli, possiamo andare più tardi, anzi fra non molto cominciate a rimettervi o togliervi le ciabatte, mettervi le scarpe e fiondatevi verso il parco della Zucca in via di Saliceto per andare a vedere i ragazzi della baracca Testoni Ragazzi dei Cantieri Meticci e del Dipartimento Educativo del Mambo allo spettacolo Dimenticare la Bolognina. Dopodiché, dopodiché niente, ci salutiamo. Fammi vedere, noi, malgrado Brown Sugar sia stata l'ultima puntata di oggi, lo ascoltavo mentre venivo qui in macchina, mentre invece Coxo Spaziale continua incessantemente, come sempre. Di solito abbiamo sempre, io e Fedra abbiamo sempre continuato, insistito tutta l'estate, forse per paura che qualcuno ci spodesti la nostra ora, ma direi che ormai siamo un appuntamento fisso, siamo quasi al quarto anno di vita di questo programma abbastanza così, abbastanza coxico, e per cui niente, vi do appuntamento a venerdì prossimo, in cui saremo già in luglio, e niente, adesso vi volevo far sentire l'ultimo pezzo che avevo scelto, che ho trovato su SoundCloud, in realtà anche la musica di sottofondo è tutta musica che trovo su SoundCloud, che fra l'altro è una piattaforma che mi piace molto di più di tutte le altre. Spotify la odio abbastanza, mentre invece su SoundCloud si trova un sacco di roba interessante. Naturalmente ci sono anche i nostri amici Enrico Farnelli, Riccardo Lolli, e così andare. Qua cosa succede? Niente, è così, e questo è quanto, diciamo. Abbiamo così accennato un po' al ruolo dell'artista, magari nella prossima puntata, se abbiamo tempo e la possibilità, ne parleremo di nuovo, perché secondo me è una cosa interessante, magari anche con Fedra. Io ero Stefano W. Pasquini, questo era Coxo Spaziale, e adesso vi lascio con la sigla finale, con FIA, So Far, So Close. Ci sentiamo venerdì prossimo, come al solito, su Radio Città Fujiko. Ciao! I'm living in the city where my grandfather was born. recognize a chest of drawers. I look out the window and I see the view she saw, and it takes me back to when I was a child. When I was a child, I had to come Spaziale. This was the 226th episode of Space Cocktail. Amazing CDs, they're terrible.